È una ragazza molto allegra, ride spesso. È l'agitazione, la nevrosi. Sì, no, dice, siccome la nevrosi del carattere. La nevrosi del carattere. È emozionata lei, allora tranquillizza me, mi massaggia la schiena. Ah, vedi, che poi fantastico. Va benissimo, perché io ho fatto tutto un lavoro rilassante oggi pomeriggio che adesso potrebbe anche sgonfiarsi qua in trasmissione. Invece con Noel Gazzano vicino mi sento tranquilla. Oh, meno male, perché... E così siete tutte mascherate ed è bello finalmente, dobbiamo dirlo, che finalmente abbiamo un ospite, la prima ospite in studio dai tempi del Covid, cioè dal lockdown di febbraio. Incredibile. Dovremmo emozionarci un po' anche noi. No, effettivamente sì, no, io sono emozionato e poi emozionata lei, siamo emozionati tutti. Ma che cos'è Crisi Nera? Che probabilmente cioè due terzi del nostro unico ascoltatore non sa di che cosa stiamo parlando. Allora, Crisi Nera intanto si scrive tutto attaccato, cioè proprio un nome proprio, quindi Crisi Nera, ed è un fumetto. Che esce sulla stampa. Allora, in questo momento non sta uscendo, è uscito tutti i giorni sull'inserto estivo della stampa, quindi da giugno fino alla fine di Ma tanto non preoccupate, settembre. Che qua a Bologna la stampa non la compra nessuno, anzi forse non si trova nemmeno in edicola. No, non esageriamo. Adesso non sei esagerato, no, io invece qui qualche volta l'ho qui visto o il resto del Carlino o il Manifesto, basta. No, c'è anche Repubblica che bazzica, però sì, la stampa non è il top, il best seller bolognese. Sicuramente cercheremo di muoverci anche, però è il best seller di ma sicuramente insomma in Piemonte, Liguria, sì, Val certo. d'Aosta, in queste zone qua sicuramente. Quindi tu l'hai incontrata nei tuoi pellegrinaggi torinesi, Pasquini? No, io l'ho incontrata al Forum dell'Arte Contemporanea online. Noi siamo un'amicizia digitale che poi si è fatta realtà. Esatto. queste cose da quarantena, sì. In realtà io c'eravamo già conosciuti online, eccetera, parlato durante il forum, eccetera, ma poi un giorno lei ha postato questo video che a me mi è piaciuto così tanto che l'ho condiviso anch'io sulla mia bacheca. Di lei che incontra nella campagna fiorentina, anzi cioè proprio subito fuori Firenze, era in mezzo a questo microbosco e incontra un daino, un cerbiatto. Era proprio in realtà a Bello Sguardo, che è questa zona meravigliosa alle porte di Firenze sopra Piazza Tasso, mm-hmm. dove sono andata a stare ospite a casa di un amico. E sì, è stata un'esperienza molto particolare perché sono andata a fare una passeggiata e c'era questa radura, quindi praticamente in città passavi attraverso un piccolo boschetto di mirto, di piante selvatiche, e entravi da lì in una radura e si è manifestato un cervo, così con vista Duomo, vista Piazza Santo Spirito, e questo piccolo cervo. Fantastico, con sì. tanto di corna e apparato. Con tutto, cioè era proprio assolutamente Bambi, sì. Poi in realtà mi ha guardato ed è scappato immediatamente, per cui da lì è nata tutta una serie di riflessioni che poi ho tradotto nel mio lavoro come artista di arte contemporanea. È nato tutta una serie di riflessioni sul rapporto tra la specie umana e le altre specie animali, che giustamente sono terrorizzate da noi, e quindi il pensiero che ho avuto è stato: ma visto che tutti gli animali in qualche modo comunicano tra di loro facendo dei suoni, chissà se anche noi, che magari abbiamo una sensibilità ecologista, una sensibilità più delicata, possiamo immaginare un qualche tipo di suono che potremmo usare per comunicare alle altre specie che non siamo una fonte di pericolo. Insomma, ci sono rimasta male. Sarebbe una menzogna però comunicare che non siamo una fonte di pericolo, perché... Ma alcuni collettivamente sì, però io intendevo quelli di noi che effettivamente non lo sono, cioè tipo io a quel daino lì, a quel cerbiato gli avrei voluto dire: ma stai, cioè nel senso il prato è grande, io mi metto lì, disegno, okay. mi leggo un libro, però lui ha giustamente pensato: eccola un'altra stronziona come tutti quegli altri, insomma avrei voluto poter dire. E succede quando ci si fa una cattiva nomea e dopo poi ci prende di mezzo esatto. anche quello che non c'entrava quello che non c'entrava niente. Un po' come quando i poliziotti bastonano al raglio e guarda caso pestano sempre il giornalista. Ma io non so com'è sta cosa, capito? È così. Perché il giornalista lo racconta. Esatto. Insomma, mi ha mandato a quel paese un cerbiato, ci sono rimasta male, ho detto: faccio arte. Cioè, esatto. di questa no, perché cosa. Lei comunque è abbastanza particolare, cioè nel senso che una che pubblica una striscia di fumetto di fatto giornalmente, ma poi è anche un artista d'arte contemporanea, È abbastanza strano, no? Di solito non succede. Succede? Guarda, non lo so. Sai, io ho un'idea un po' estesa di arte. Mi ricordo anche un altro che faceva questo, adesso di cui non mi... Il dottor, come si chiamava? No. No, adesso mi viene in mente. però comunque sì, c'è qualche concorrente, no, in America un sacco, poi lei è mezza americana, per cui sì, è già più normale. Ma fare l'idea è cose. Quella l'idea secondo me è che quando fai arte è un linguaggio e quindi devi, è interessante poter comunicare al pubblico più vasto possibile. Poi soprattutto come esseri umani ci trasformiamo costantemente, quindi un linguaggio che ci corrisponde in un periodo della vita non ci corrisponde in un altro, quindi è normale che un artista possa passare dal fumetto alla scultura alla pittura a seconda di quello che vive in quel momento e anche a seconda del tema che sta affrontando, perché magari tipo il lavoro con la stampa mi è servito per poter affrontare proprio tutte le crisi della quotidianità, no? di questo periodo, un discorso molto anche immediato, a differenza di quello che accade quando spesso si fa arte contemporanea. C'è un tempo molto lungo tra l'esperienza di quello che viviamo, la creazione dell'opera, la comunicazione dell'opera, possono passare anche 2 anni. Invece con il fumetto pubblicato su un quotidiano è possibile proprio fare una riflessione, creare immediatamente un'opera, immediatamente condividerla con un pubblico molto vasto e immediatamente entrare in rapporto. Quindi la cosa fondamentale, credo, dell'arte, credo che sia questa, il rapporto. I tempi della radio invece sono ancora più veloci, per cui io devo fare gli auguri di compleanno a Francesca Grispello, che è la nostra press officer, che ci manda sempre della gran musica, e dunque vi devo far ascoltare un pezzo nuovo che si intitola L'Eremita di Emanuele Bozzini. L'Eremita parla di solitudine, di depressione, probabilmente anche di speranza, scritto in un periodo in cui non sapevo dove cercarne, dice lui. È una figura di per sé ambigua che può simboleggiare tutto un ventaglio di possibilità esistenziali che separano la ricerca interiore dalla mera misantropia. Esistono elementi naturali come l'alta montagna che riescono a distanziarci dal chiasso umano e da quello interiore. Insomma, adesso ce lo ascoltiamo perché mi sto stancando. Sì, no, vabbè, ascoltiamoci poi... L'Eremita. Ascoltiamolo. tuoi pensieri, oltre i tuoi desideri. Se lo vorrai, ma dovrai andare oltre il tuo vero nome. Voglia che di vivere, spazza col sorriso tutte le sue nuvole. E poi digli chi sei. Ed io, che non sapevo che cos'era la mia vita, canterò la notte dentro i sogni dell'eremita. E gli sussurrerò, risvegliati e vieni a lottare con noi. Mi piaceva lasciare questo folata di vento. Comunque allora, questo era il terzo singolo tratto dall'imminente EP Lontano, in uscita il 13 ottobre, che appunto si intitolava L'Eremita. E questo era Emanuele Bozzini, che è www.emanuelebozzini.com. E posso suggerire, visto che siamo in tema, e l'avevo già detto a quelli che ci seguivano sulla diretta Facebook, che poi si è interrotta, di leggere 1996, Cronaca di un salvataggio impossibile, a proposito di Everest e del fatto che non raccomanderei sempre, lo dico a Bozzini, la montagna come luogo di pace e serenità. Potrebbe anche non esserlo. Potrebbe anche non esserlo. Ma sì, torniamo a palla. Sulla nostra crisi nera, Noel Gazzano, che ci deve ancora. Non abbiamo capito, abbiamo no, capito non ho quasi capito niente, assolutamente niente. Allora, ho trovato però qual era l'altro fumetto, che okay, è i fumetti della gleba di Dottor Pira, che erano anche nello stand di Amedeo Martegani ad Arte Fiera, quando lo stand sui libri lo curava lui. Hai capito? Ha una certa notorietà nell'ambiente, sono anche belli, però. Ripeto, adesso ci parla della crisi nera. Ci devi parlare di crisi nera. Sì, perché insomma, intanto innanzitutto, come nasce crisi nera? Crisi nera infatti nasce in questo modo. Cioè, intanto c'è sempre un motivo, mi sembra, ultimamente, per stare in crisi nera. Quindi mi sembra un fumetto assolutamente adeguato al momento. Ma il fumetto è nato 2 anni fa in modo molto spontaneo. E, cioè, intanto sto soffocando con questa FP2 e insomma il tentativo di parlare in radio. Anche togliere, visto che anch'io comunque ho la FP2, quando tu parli magari te la togli tu, quando parlo io me la tolgo io. E poi, proviamo a fare così, ok. Allora, è nato 2 anni fa mentre è nato 2 anni fa mentre ero a Lecce ospite di alcuni amici ed ero sinceramente in crisi rispetto a tante cose di questo fantasmagorico mondo dell'arte, ed ero seduta nella cucina di questi amici da sola, mi stavo bevendo un caffè nella classica posizione della persona disperata, cioè tipo caffè in una mano, fronte poggiata sull'altra, e un amico mi ha scritto: come stai? Su WhatsApp. E io gli ho risposto: io e crisi nera, C maiuscolo tutto attaccato, ci stiamo bevendo un caffè. Tipo, mi sono fermata, ho guardato il cellulare, ma io che cosa ho fatto qui? Lì mi sono resa conto che avevo inventato qualcosa. Poi ero in fase depressiva totale, per cui ho detto: no, vabbè, ma non è niente. E poi invece nel pomeriggio ho detto: ok, ma se fosse effettivamente un personaggio di un fumetto, come sarebbe questa crisi nera? Allora ho immaginato una sorta di incrocio tra, avete presente Tazzi, il diavolo della Tasmania, quando faceva questi turbini di polvere, e poi nel personaggio di Linus c'era Pigpen, che aveva sempre anche lui questa sorta di nuvoletta di polvere sporcizia, insomma, questa idea Sarà passato lui per le scale. Sarà passato. E poi. Con le moschine attorno. Esatto. E poi questa sensazione che a volte abbiamo, magari quando siamo un po' stanchi e confusi, di avere proprio gli spaghetti al posto del cervello, no? Cioè, sei proprio il piatto di Amatriciana. E quindi ho disegnato questa sorta di batuffolo peloso. Poi ho pensato, ma quello non basta, ci vuole anche qualcun altro. Allora sono andata a recuperare un fumetto che in realtà disegnavo quando avevo tipo 15 anni, 18 anni, che era questa striscia satirica in cui c'era una sorta di autoritratto estremamente ironico. Ho aggiunto un po' di anni, un po' di puppe, insomma, e i capelli un po' più lunghi, e così è nata, e così è nato questo fumetto, insomma. E mi sono messa proprio a disegnare sia delle vignette sia delle strisce con delle storie un po' più. Ma cosa si dicono? Ma si può leggere in radio una vignetta? Funziona questa cosa? Leggere in radio una vignetta? Proviamoci. Dai, tu tira scegli, fuori una vignetta. Tira fuori una vignetta. E dove c'è la vignetta in tasca? Non lo so. Dimmi dove la posso. Allora, no, vabbè, c'è comunque, insomma, c'è la pagina Instagram, la pagina Facebook. Ah, okay, quindi io vado. Si potrebbe leggere il TG di Crisi Nera, ma è abbastanza. Allora, la difficoltà è che ci sono dei video ora, perché ovviamente, visto che pubblicavo sulla stampa, non potevo poi mettere l'immagine della striscia anche sui social, per cui ho trovato l'escamotage di mettere dei video in okay, scegliene in timelapse. Non questa magari, vediamo un po'. Cioè, bisognerebbe trovare un TG di Crisi Nera. Pasquini, ma parla però nel senso, cioè, mi state facendo fare una cosa veramente siamo così. Però non sono disegni, non funziona, ragazzi. Non vabbè, no, questo è solo un pezzo. Che vi devo dire? Non ci sono. Non lo so, niente. Allora, abbiamo già capito che non funziona leggere una striscia. No, leggere la striscia. No, radiofonicamente è un grandissimo bordello. Vabbè, invece questa io ne ho trovata una che invece funziona. Ah, vabbè, il primo maggio. Il primo maggio. La leggo io. La leggo io, allora, primo maggio degli artisti, perché che è un tema poi su cui io ho lavorato sullo sciopero dell'8 marzo delle artiste, come fare. E quindi mi identifico in questa vignetta. Ieri non siamo usciti con la vignetta, dice il personaggio Noel Gazzano, quella okay, di 15 anni e con le poppe eccetera, e Crisi Nera, che è quest'altro tipo, il mostro che dicevamo prima, il Ghirigori nero, il di Ghirigori fianco. Nero, che però avevi nominato un dio quello della Tasmania. Della Tasmania, ecco. Allora, ieri non siamo usciti con la vignetta, tanto l'arte in Italia non è un lavoro. E questo risponde Crisi Nera, che in effetti è un po' uno dei temi nostri. Mi verrebbe quasi da fare così, che però non c'entra. No, però comunque ci sta assolutamente. Okay. Arte in Crisi Nera. Ma sì, era un po' quel momento, no? Però adesso invece non è più vero per te questa cosa, perché tu lavori con le vignette. Esatto, per cui l'arte ti è diventata un lavoro. Mi è diventata un lavoro. Quindi il primo maggio non fai niente, non produci. No, me la posso tirare proprio, la posso tirare ormai. No, anzi, puoi chiamare gli amici, cosa fate oggi? Dove andiamo oggi? Oggi, ma noi siamo a lavorare. Allora, io devo mandare la newsletter, queste cose invece queste tu no, qua. E poi l'8 marzo tu puoi scioperare, dire a quelli della stampa l'allero e scendi in piazza e dici no, io sciopero, vero sciopero. Ho capito. No, in quel momento era il periodo appunto del primo maggio, in cui non c'era chiarezza, no, sul modo in cui gli artisti in Italia sarebbero stati trattati, diciamo, rispetto ai vari fondi dati a seconda del lavoro, no, che uno faceva, perché ovviamente, insomma, non so a voi, ma a me sono saltate tutte le mostre, le residenze, è saltato ogni cosa, però non è che ci fosse. A me è saltato anche un ponte. A me è saltata la mosca al naso. salta un po' tutto. Ma sì, è saltato un po', ma tutto. Lasciamole saltare queste cose, queste mostre qua, poi cosa le facciamo a fare? Ma alla fine chi se ne frega, appunto, di queste mostre? Cioè, non interessa neanche a nessuno, ma sì, secondo no, ma poi me vuoi dire tu, compriamo la stampa. Poi si possono fare le mostre online, le fiere online, si può fare. Oh, splendido. Si può fare tutto online. Senza muoversi da casa. Il sesso online lo facciamo già da anni. Beh, c'era anche quella cosa fantastica, vi ricordate? Her. Her. lei. Che era, c'era un amplesso notevole all'interno di quel film. È vero. È stato è abbastanza premonitore. Beh, sì, era poi abbastanza. C'eravamo già dentro fino al collo. Sì, no, infatti. E adesso invece noi siamo dentro fino al collo alla pubblicità delle 19:29. Non so che ora fate da quella parte. Le 19:29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Amore, vorrei andare a prendere l'angolo della menzione. Ebbene sì, prima di tornare a Noel Gazzano dobbiamo menzionare almeno una cosa. Con questi occhiali da lontano non ci vedo niente. Sì, però ti fanno molto chic, devo dire. Hai un'aria professorale che ti invecchia di quei 40-50 anni. Esatto, che tristezza unica. Comunque, fatto sta che adesso mi mancano quasi 2 gradi, è spaventosa sta cosa. Però questi occhiali mi servono per leggere che il 6 ottobre, che è domani, dalle 18 alle 21, inaugura Lumi di Zimmerfrei. Ah, per Bacco? Per Bacco. Lumi è il nuovo film di Zimmerfrei, prodotto da ON, e sarà presentato in forma di videoinstallazione nelle sale di Alchemilla, che sono state anche scenario delle riprese. Lumi fonda la sua ricerca artistica su recenti studi sociologici e antropologici, ma è ispirato soprattutto da persone reali incontrate da Zimmerfrei nel corso delle ultime peregrinazioni documentaristiche, che hanno portato alla nascita di un lavoro di fiction, o per meglio dire stage documentary, che registra la perdita di efficacia di una parola, l'identità. Non è più intesa come definizione univoca, ma piuttosto come un bisogno di riconoscimento, un intreccio di somiglianze e differenze. Effettivamente questo potrebbe interessare anche alla nostra Noël, che è anche antropologa culturale. Esatto. Per la prima volta nella storia artistica, nella loro storia artistica, Zimmerfrei adotta, Zimmerfrei sono questo gruppo di collettivo di artisti di base a Bologna, per cui tutti li conoscerete, dicevamo, adotta la finzione e ricorre anche ad attori veri e propri per comporre una sequenza di 3 capitoli, 3 storie affettive. È partita una musica che non c'entra niente. No, infatti mi domandavo ma è la musica di sottofondo, va un po' secondo così. Me cioè, io non posso leggere le menzioni, sta dietro alla trasmissione e anche pensare a che tipo di musica di sottofondo va, cioè va quello che va, insomma. No, così. Infatti lo diremo anche a Zimmerfrei ma non credo che avranno qualcosa da dire a riguardo. Ma no, ma infatti. Dicevamo, 3 capitoli, 3 storie affettive apparentemente distinte, ambientate in un unico set all'interno di un palazzo storico, un tempo residenza del cardinale Lambertini, che poi diventerà Papa Benedetto XIV. Il palazzo di Alchemilla? Che sarebbe il palazzo di Alchemilla, incredibilmente. Cioè, il palazzo di Alchemilla, e poi è diventato Papa questo che abitava lì? Esatto. Hai capito. Fatto sta che tutto questo, cioè la mostra, è a cura di Martina Angelotti, che abbiamo raggiunto via WhatsApp, che adesso ascoltiamo che cosa ci racconta, se riesco a togliermi gli occhiali contemporaneamente oltre alla musica di sottofondo, esatto, e a leggere il comunicato, ti devi anche togliere gli occhiali per vedere da lontano. Salve, sono Martina Angelotti, direttrice artistica di ON e curatrice di Lumi, il progetto di Zimmerfrei che verrà presentato il prossimo 6 ottobre a Bologna presso Palazzo Vizzani. Lumi nasce grazie al supporto dell'Italian Council, un programma di promozione e produzione di artisti italiani promosso dal MIBACT, che ON ha vinto nell'anno passato, nel 2019, nella sua sesta edizione. E, diciamo che Lumi nasce un po' sulla base di una riflessione, di una ricerca che Zimmerfrei porta avanti da diverso tempo, in particolare sul tema dell'identità e delle nuove forme di cittadinanza, già esplorato anche in opere più recenti come nel neonato progetto dal titolo Saga, che vede protagonisti alcuni giovani adolescenti migranti, nuovi cittadini della città di Bologna, e poi espanso ed esplorato in una maniera molto più approfondita e con direzioni anche un po' diverse all'interno del progetto Lumi, che appunto vede un'affinità e una relazione con recenti studi di antropologia e sociologia legati a questa tematica, in particolare quelli portati avanti anche dall'antropologo Francesco Remotti, che per noi è stato un po' una fonte di ispirazione, insomma, che ha accompagnato le nostre ricerche, le nostre discussioni anche fin da prima che Lumi nascesse o diventasse, diciamo, concretamente un'idea progettuale, con i suoi testi come ad esempio Contro l'identità o L'ossessione identitaria. Ecco, infatti non a caso proprio a Remotti abbiamo affidato il compito di scrivere un testo introduttivo per la pubblicazione che accompagna questa mostra edita da Moose Publishing, e che assieme alle sceneggiature compone un po' tutto il progetto editoriale in formato editoriale del film. E Lumi dunque si compone, è una videoinstallazione che si compone principalmente di 3 capitoli, e accompagnata anche da un'installazione sonora realizzata appositamente in uno degli spazi del palazzo. Abbiamo pensato di allestirlo qua proprio perché qui è nato anche a livello di riprese, perciò tutte le scene sono ambientate all'interno di questo luogo che, pur essendo un palazzo molto austero nel senso di essere appunto un palazzo nobiliare, storico e architettonicamente molto maestoso, conserva un'intimità e una domesticità molto calda, molto intima, che si prestava effettivamente ad ospitare i dialoghi che vengono portati avanti dagli attori protagonisti dei 3 capitoli dell'installazione filmica. E diciamo 2 delle sceneggiature che compongono l'installazione sono state scritte direttamente da Anna De Manico, regista e artista di Zimmerfrei. La terza invece è stata affidata ad Alessandro Berti, che è un drammaturgo e regista teatrale che da molto tempo sta anche nella sua ricerca attingendo da temi e riflessioni molto simili a quelle su cui si è ispirata un po' tutta la ricerca anche di Lumi, ovvero la rappresentazione del corpo nero nella società bianca, la questione identitaria, il riconoscimento dell'altro come diverso da sé, la produzione razzializzata del visivo, eccetera eccetera. Quindi tutte tematiche piuttosto attuali, molto urgenti, molto anche scottanti, che riguardano ovviamente ambiti extra artistici oltre che culturali, e che in qualche modo Lumi cerca di portare alla luce usando in questo caso anche attori professionisti, quindi ricorrendo alla fiction proprio come un linguaggio mai esplorato, direi, dal gruppo Zimmerfrei, e quindi usando degli attori professionisti, anche degli attori non professionisti che in alcuni casi proprio mettono in scena attraverso la interpretazione dello script delle storie personali vissute, delle realtà vissute veramente. Perciò i protagonisti che incontriamo in questa esperienza filmica sono alcuni neri, altri bianchi, altri arrivano da molto lontano, altri vivono qui da sempre. Quindi c'è una relazione affettiva tra ciascuno di loro. E ci sono dei temi che ricorrono e che si in qualche modo collegano attraverso il racconto, attraverso lo storytelling, attraverso la sceneggiatura. Ecco, credo di aver detto abbastanza. L'installazione sarà visibile fino al 18 ottobre e approfitto di questa occasione anche per dirvi che il 17 ottobre invece, sempre all'interno dello stesso luogo ma stavolta all'esterno, nel senso che useremo il cortile del palazzo, ci sarà l'occasione, insomma, di assistere anche ad una performance, ovvero un audio documentario performativo a firma dell'artista Riccardo Giacconi, un artista che da sempre utilizza anche il linguaggio del suono e della parola raccontata attraverso il suono e che per questa occasione presenterà in occasione di un book launch, ovvero la pubblicazione di un testo legato al suo recente progetto espositivo dal titolo Options, un audio documentario che raccoglie in forma appunto di sceneggiatura raccontata live una serie di materiali raccolti durante una ricerca fatta sul campo nel territorio del Sud Tirolo per raccontare il tema dell'identità a partire però da una vicenda storica, ovvero quella in cui durante il fascismo gli italiani sono stati costretti a decidere se rimanere sotto il governo italiano o sposare definitivamente quello austriaco. Grazie Martina Angelotti. Che cosa, cioè, cosa avevi da dire nel frattempo? No, io volevo dire che intanto mi ero documentata su Lambertini e ho scoperto che è un illuminista, era un illuminista, però adesso io non mi sentirei io volevo aggiungere troppo. Tutto quello che riguarda Alchemilla e questo evento saranno naturalmente domani sul nostro blog www.coxospaziale.blogspot.com, così troverete l'indirizzo e tutto quanto. Esatto. Comunque in Santo Stefano. Sì. Però la nostra ospite si sta addormentando. Lei si sta addormentando. Continua a essere molto è amabile e molto carina e continua a ridere e a prenderla in ridere nonostante che forse potremmo farle un miglior servizio qua. Sì, e allora fatemi qualche domanda. Di lei come artista, come artista contemporanea. Cioè, allora, tu hai questa striscia, sì. Però non hai solo questa striscia. No, questo è un progetto in realtà che è nato nel 2018 e quindi mi sono avventurata nel mondo del fumetto, però è da sempre che faccio arti visive e performative. La cosa interessante è radicata nella ricerca antropologica. Cosa significa? Che per me la cosa fondamentale è che un artista stia nel mondo e crei, diciamo, le sue opere in rapporto con il mondo, con le criticità del momento. E quindi quello che mi piace fare fondamentalmente è viaggiare, conoscere un luogo, conoscere le persone, quello che stanno vivendo. E poi ho uno spirito, insomma, molto, come dire, un senso di giustizia molto, molto forte, per cui mi piace occuparmi di diritti umani e di cercare di utilizzare l'arte come uno strumento per parlare di questi argomenti. A latere voglio dire che mi sono laureata con Francesco Remotti, e quindi insomma questa passione per l'antropologia, per lo studio delle società, l'ho sviluppata proprio con lui, che è l'antropologo di cui ha parlato Martina, la curatrice, esatto. In questo istante. E, sì, e quindi insomma mi sono occupata proprio come antropologa di tanti luoghi, in particolare del Salento. Ho fatto molta ricerca in Salento e mi sono occupata della questione ecologica in quel territorio. Adesso io potrei farti una domanda scomodissima, però sì, te la sei un po' cercata, vai. Perché volevi le domande. No, perché ne abbiamo parlato qualche trasmissione fa, ti ricordi, Stefano? Ah, certo. Della manifestazione, che c'è, cioè della sfilata di Dior organizzata da Dior. Che aveva un artista che batte un po' su questi terreni, che è Marinella Senatore, che forse tu conoscerai. No, non la frequento, non so. Cioè no, frequento magari, però di nome magari sai che sì, sai che è al mondo. Vabbè, sì. Adesso lo scopri comunque. No, lo so che è al mondo. No, vabbè, lì la cosa interessante è questo discorso un po' di cui mi sono occupata tanto, che è la gentrificazione dei centri storici, la trasformazione comunque di un centro storico in un prodotto da vendere, la trasformazione di quella che è una tradizione culturale in un prodotto da vendere. Quindi si passa da una spontaneità di rapporto, perché alla fine la gente fa cose e sta insieme e quindi è normale che ci sia musica, è normale che in qualunque comunità ci sia una creatività artistica del fare le cose insieme. Tutto a un tratto c'è questa roba che si chiama turismo di massa, per cui la gente vende quella che è l'autenticità della propria vita e quella diventa esperienza turistica figa da fare. Peccato che poi le popolazioni perdono la propria identità, perché tocca che paghi il biglietto per fare una cosa normale che fino al giorno prima facevi, insomma, nella tua intimità, peraltro. E quindi insomma quando ho visto, senza approfondire il discorso della curatela artistica, di cui non ho alcuna competenza perché non l'ho approfondito, però semplicemente quella visione, no, delle, di tutte le luci che poi sono le luminarie in Piazza del Duomo a Lecce, cioè le luminarie vengono allestite nelle feste di paese per i santi eccetera, tutte quelle luci però fatte per, proprio per il mondo della moda che, cioè, comunque, sì. Insomma è un mondo molto difficile da un punto di vista etico, da un punto di vista del sentire, da un punto di vista dei rapporti. Insomma, cioè, ci sono i pro e i contro, con questo tipo di scelta, e sono argomenti molto controversi, ma d'altronde io ho vissuto tutta la vita adulta, ho fatto il dottorato a Firenze, ho vissuto tutta la vita adulta a Firenze in Duomo, in una torre in Duomo, e ho vissuto lo svuotamento del centro storico, per cui io non avevo più il mio bar, non c'era più il ristorantino dove andavo, non c'era più il mercato, non c'è più il mercato di San Lorenzo, adesso è sta cosa per coreani, insomma, per cui l'ho vissuta sulla pelle questa esperienza. Spero che Lecce non faccia la stessa, non prenda fine, questa insomma strada. L'ha già presa. Io volevo dire, comunque, il nostro ascoltatore è attento, che vorrei un po' ritornare a citare, che magari poi se no si sente trascurato. Certo, anche perché poi magari diventa disattento. Poi capita che si distrae. Ecco, allora invece non si deve distrarre, perché vedi che noi a distanza di diverse puntate siamo tornati su un tema che forse non eravamo riusciti a sviscerare in pieno, però. Continueremo a non riuscire a sviscerare. Però lo ha sviscerato Noel Gazzano, che mi sembra che abbia dato una lettura. Cioè impeccabile di tutta piuttosto la vicenda. Piuttosto lineare, impeccabile, che mi trova anche sostanzialmente d'accordo, quindi possiamo anche fare un passo avanti. Possiamo anche fare un passo avanti, no? Pensare all'esperienza che abbiamo avuto con la quarantena, l'esperienza che abbiamo avuto in questo anno di Covid, che ci ha portato a viaggiare soprattutto in Italia. Tu dici che ci gentrificheranno e dopo dovremo pagare per entrare a casa nostra. Ma è già successo, perché fate questo ragionamento, cioè la gente che dice: "Ah, che figo, si alzano i valori delle case". Ma cosa dici? Che poi quando tua figlia se la deve comprare non se la può permettere e tu finisci in un palazzaccio a Novo e lì con l'aeroporto dietro sotto al culo e la casa che c'avevi in centro storico. E poi ti tocca anche di pagare la tangenziale per arrivare a casa tua. Cioè nel senso non c'è questa miopia, per cui poi diventa una questione proprio elitaria la qualità della vita, ma insomma uno può veramente, cioè l'abitare, uno deve stare dove hai rapporti, uno deve stare nei centri storici dove c'è gente, dove non insomma. Mi piace questo ospite che hai chiamato. Hai visto? No, io lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Infatti. Ma poi soprattutto io dico, uno, contrappasso dantesco. Firenze ad esempio si è completamente dedicata agli stranieri, le università sono tutte americane, l'università di Firenze quando io ho fatto il dottorato era una figata, stavi tutto in centro storico, no, adesso c'è il non luogo creato nella zona del tribunale e adesso con la cosa del Covid Firenze è completamente deserta, 10.000 appartamenti vuoti, no? E poi ancora peggio, quando un turista viene, cosa fa? Cioè, non trova niente di vero, non trova una vita autentica. E allora, paradossalmente, questo processo che è stato fatto per i turisti ha esattamente l'effetto contrario, nella misura in cui alla fine, a parte che stanno tutti dietro lo schermo a guardare la vita. È un po' quello che fa l'arte contemporanea, no? Sì. Che continua ad amicarsi solo quel collezionista, e alla fine il collezionista muore ed è finita la galleria, perché ormai tutti gli artisti lavoravano solo per quel collezionista, e il pubblico, cioè, chi se ne frega. E invece il fumetto è una figata, perché il fumetto lo leggono tutti, del fumetto non ha paura nessuno, perché c'è anche questa cosa che dell'arte contemporanea la gente ha paura, ma c'hanno ragione, cioè nel senso, se tu vai in una galleria e trovi il cetriolo sul cubo di plexiglass con intorno una spiega di 10 chilometri, aiuto, cioè, ma mi spavento anch'io, insomma il fumetto invece è un linguaggio che è estremamente accogliente. Poi insomma sì. Ma secondo me si riesce a gentrificare anche quello, sì, con un po' di volontà. Sì, basta che diventi un po', cioè, perché poi sai, sono onde, la gentrificazione non è inarrestabile, cioè è in continuo spostamento verso il nuovo territorio, quindi non sentiamoci mai troppo tranquilli, secondo me ricerca è stare in guardia. Effettivamente forse a livello antropologico è proprio la natura dell'uomo quella di dover peggiorare le cose. Forse è la natura dell'uomo, ma adesso a questo punto io faccio una domanda. Ma non della donna! Lo sapevo che l'avresti detto! No, ci siamo dati un 5 in barba al COVID a tutto quanto. Me ero disinfettata le mani, me l'ero disinfettata. Forse si è spaccato il microfono del... Però si è notato un certo entusiasmo, una certa intesa un certo da questa entusiasmo. Parte della sì, no, della effettivamente vetrata. C'è stato quasi il movimento della vetrata stessa. Esatto, verso no, perché di me. Proprio questo poi io sono contento, cioè io sono d'accordo con voi, se sì. fosse per me. Vabbè, ti troveremo un posticino, qualcosa. No, ma guarda, a me proprio i posti di potere non mi interessano assolutamente, e anzi, io darei tutti i posti di potere alle donne. Proprio perché? Perché non ti piacciono, così ce li smazziamo noi a fare tutta sì, la esatto, cosa. Sì, esatto, è troppo lavoro. Troppo esatto. Lavoro. Sì, il sì. motivo di base è una esattamente fatica, questo. Esatto. Mm. No, comunque sì, giusto, bello. No, continuate. No, vabbè, adesso abbiamo. Cioè, diciamo non è che mi fate un urlo così e poi finisce così. Ah, ok. No, allora beh, se volete, mettiamo. Guarda, perché cioè, manca un po' di musica. No, infatti manca un po'. Esatto, un pezzo, ma, esatto. Uno. No, infatti ne abbiamo messo solo uno e invece, ah, cavoli. E invece è arrivato questo da Boom Rush Promotions, che volevo leggere, soltanto che naturalmente l'iPad riavvolge il nastro, per cui è un gran casino. Entra. Magari ve lo racconto dopo. che si intitola You Won't Even Call Me On My Birthday di Glau. Cause you won't even call me on my birthday. You always say you're busy on my worst days. Tell me I should get over my heartbreak. Cause you won't even call me. You won't even call me. You won't even call me on my birthday. Does it hurt? Chasing off the memories of what we've done. Are you okay? You lost the bigger picture when you held your tongue. Calm yourself down now, calm yourself down. You let yourself down, you let me down. Cause you won't even call me on my birthday. You always say you're busy on my worst days. Tell me I should get over my heartbreak. Cause you won't even call me, you won't even call me. You won't even call me on my birthday. I've missed you, but I've got too much going on to worry about your issues. You say the conversation's dead, trust me, it's all in your head. The months roll by and we don't try, but I can still not tell you why. Calm yourself down now, calm yourself down. You let yourself down, you let me down. Cause you won't even call me on my birthday. Always say you're busy on my worst days. Tell me I should get over my heartbreak. Cause you won't even call me. You won't even call me. You won't even call me on my birthday. Ebbene sì, Francesca Crispello, sì. Non ti ho chiamato nel giorno del tuo compleanno. Super, no. Si vede che non è su Facebook, perché sennò. Ma come sei su? Certo che è su Facebook. No, invece io volevo alleggerire il discorso chiedendoti del camperino. Oh, cosa sta succedendo? Allora, cioè, su Facebook tu fai queste dirette in cui stai restaurando il camperino e noi non capiamo. Ma in realtà, guarda, si lega a quello che stai detto prima, nella misura in cui ho lasciato questo atelier che avevo in centro a Firenze perché non mi trovavo più in questa, insomma, nella situazione in cui ero, perché sentivo proprio questa disgregazione del tessuto sociale intorno a me. Poi però a pensarci non sapevo dove andare, allora ho pensato, ma perché non provare con un esperimento di vita nomade, e quindi proprio per vedere la realtà intorno, no? Mm-hmm. E quindi ho comprato questo Volkswagen del 79 a tetto alto, quindi di quelli in cui puoi entrare girare e stare in piedi, con l'idea di fare una casa studio mobile. Peraltro poi ovviamente sfiga 2020, quindi appena comprato è partita la quarantena, e appena è partita la quarantena mi sono messa a fare queste dirette, diciamo, di letture notturne, perché in qualche modo avevo bisogno di avere questa sensazione almeno di viaggio pur stando ferma, per cui stavo dentro al camper. Perché, scusa, spiegami una cosa, quando c'è stato il lockdown il camper non poteva girare. No, figurati. Quindi tu eri chiusa dentro un camper ma non potevi spostarti. Io ero in campagna fondamentalmente, sì, ero in una proprietà di famiglia, insomma, e quindi sì, quindi ero immobile. E poi è partito questo affascinante processo di restauro, che adesso positivamente lo chiamo affascinante, ma in realtà, insomma, è parecchio tosto. E quindi questo processo di restauro del camperino, per cui ho imparato a fare tutti questi lavori da carrozziere, da meccanico, proprio per trasformarlo e personalizzarlo e renderlo veramente uno studio d'arte, insomma, ambulante. Mi interessa questa proprio. Sei venuta, cioè hai parcheggiato qua sotto adesso? No, se abbiamo fatto vacanze separate. Okay. È una cosa molto americana questa, anche del camper. Tu hai detto che hai studiato negli Stati Uniti. No, io sono americana, cioè proprio. Ah, sei proprio americana. Sì. Ah, okay. Come direbbe Fellini, io sono figlio di americani. Io sono figlia di americana e italiano, storia classica della bionda che incontra il moraccione. Allora hai partecipato a Burning Man nella tua vita? No, perché tutta quella sabbia negli occhi. Cioè, no, perché mi evocava questa cosa del camper, un po' questi scenari americani, West Coast. Sì, no, ma infatti mio zio si è camperizzato una macchina e lui fa questi viaggi incredibili in questi deserti, no? In questi spazi. No, per adesso l'idea è proprio quella di esplorare l'Italia, no? E fare un esperimento di abitare leggero. E nomade. Solo sì. L'Italia? O vai anche un po'? Sì. Finora ho fatto 500 metri prima che pigliasse fuoco, ecco. Un pezzo. Quindi già fare, non so, 500 chilometri sarebbe già una già fare la Liguria potrebbe sì, essere. La Liguria potrebbe essere. E quindi il cognome di tua madre, che è quella americana e che ci ascoltava, Feldman. Sì. Quindi sei Noelle Gazzano Feldman. Esatto, Noelle Emilia Gazzano Feldman. Noelle Emilia come l'Emilia, in onore che siamo emiliani, certo, l'ha esatto. Detto adesso quando va in Liguria dice Noella Liguria Gazzano e Feldman, perfetto. Feldman come Marty Feldman, siete parenti? No, però abbiamo un Marty Feldman in famiglia, ma non è quel però Marty non Feldman. È quel Marty Feldman, peccato, questo poteva essere anche poteva essere la prossima volta che ti invitano in trasmissione, magari quando vai in Liguria in quella trasmissione lì dove sei Noel Liguria Gazzano, dimmi anche che sei cugina di Marty Feldman. Perfetto. Che aiuta radiofonicamente la trasmissione. Perfetto. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. È bene saperlo che stiamo ascoltando Coxo Spaziale, perché non si sa mai. Fatto sta che comunque sono le 19:58 e la nostra trasmissione sta finendo. Come facciamo? Siamo riusciti a portarla a termine anche oggi. Esatto. Sembra sempre incredibile questa cosa. È abbastanza incredibile. Come noi ci si possa riuscire? Beh, c'è gente da fuori che ci aiuta con i servizi radiofonici un po' così. Un po' lunghi. Esatto. Sì. Molto bene. E dunque io ti ringrazio infinitamente per essere venuta senza camperino dalla Liguria fino a Bologna per raccontare un po' di crisi nera e un po' di crisi bianca. Questa battuta ha lasciato lo sconcerto. Sì. E dunque a questo punto possiamo salutarci così? Sì. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo era Coxo Spaziale e io ero Chiara Rosso. E io ero Stefano W. Pasquini. E tu chi eri? Noelle Gazzano, alias Crisi Nera. Hitta på min karaktär utan någon att bli kär, flyttar ihop och isär. Jag menar inget till det såklart, jag lovar att vara där, men jag är en idiot. Något litet blir så lätt i något stort när vi ser lever. Så glömmer jag vad jag gjort. Och det Känna